Il problema è che l'affermazione di Blair non è supportata dal testo della risoluzione. Nel testo della risoluzione non si prevede un meccanismo di uscita, diciamo così, delle forze occupanti. Si prevede una gestione congiunta della sicurezza tra forze occupanti e future forze di sicurezza irachene, che verrà rivista, si parla di review nel testo della risoluzione, tra un anno. Review non significa e non implica necessariamente la possibilità per il governo iracheno di chiedere alle forze occupanti di allontanarsi. Il problema è che la bozza di risoluzione rimane molto vaga su alcune questioni centrali, tra cui appunto quella della continuazione della forza occupante nel territorio iracheno, che viene lasciata appunto come un'opzione aperta e poco chiara, quella del comando unificato delle forze multinazionali che, leggendo anche tra le righe la risoluzione, sembrerebbe dover restare in mani americane, quello della gestione del petrolio iracheno, quello dell'autorità del nuovo governo iracheno di cancellare leggi emesse dalla coalizione. Ci sono tutta una serie di questioni che non vengono affrontate o vengono lasciate volutamente oscure nella risoluzione. Mi sembra logico che, dato il recente passato e data anche il comportamento che hanno avuto Stati Uniti e Regno Unito nel Consiglio di sicurezza, con una serie di affermazioni che poi si sono rivelate false, ci sia una certa prudenza da parte degli altri membri ad accettare delle dichiarazioni che non sono supportate né da dati scritti né da una coerente presa di posizione di Bush, di Blair e degli altri protagonisti. Ognuno la canta in un modo diverso.